Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono. Sono qui in compagnia di Gianpaolo Colletti. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo nel 2010 con una nuova iniziativa, mi sembra di capire, e con una nuova inchiesta che noi lanciamo in radio dai microfoni di Nova Lab 24 e che insomma ci accompagnerà anche nelle prossime settimane. Insomma, cerchiamo di capire quello che tu hai definito il fenomeno dei WWW workers. Esatto. Spiegami bene. WWW workers è una nuova generazione di italiani che in realtà decidono di lasciare il lavoro a tempo determinato, indeterminato o comunque dipendente e di scommettere su loro stessi e sulle proprie passioni, grazie anche alle nuove tecnologie. Ecco, diciamo lasciare volenti o nolenti, cioè nel senso che abbiamo visto i dati della disoccupazione, molte di queste storie, alcune partono sicuramente da una scelta di campo, altre partono invece da un dato di fatto, l'azienda chiude o l'azienda è in difficoltà o quantomeno vengo messo in una situazione lavorativa che non mi consente, non mi permette di esprimersi, ma di più, cioè non vado da nessuna parte, sono in un vicolo cieco. A quel punto spesso sono sì scelte forzate, scelte dettate da necessità, molto sacrificate, però in realtà poi si scopre che magari perseguendo la propria passione e imprenditorializzandosi anche grazie alla rete si riesce a trovare un proprio business con uno specifico modello. Sì, perché poi insomma il liquido amniotico, diremmo, all'interno in cui si muovono queste realtà è internet, in un modo o nell'altro, magari non è direttamente internet inteso come il www, ma può essere le logiche che scatena la rete. Tra l'altro noi racconteremo queste storie e chiediamo agli ascoltatori, che insomma sono diciamo novelli imprenditori o sono persone che quantomeno hanno, a un certo punto della loro vita, hanno detto ma sai che c'è? Cioè che cambio? Cioè che mi butto, mi metto in gioco, provo a capire se un progetto che avevo in testa, se un'idea che avevo in testa può essere realizzata. Ecco, noi cerchiamo di raccogliere queste storie. Come lo facciamo? Lo facciamo con sicuramente la posta elettronica di Novalab24 @radio24.it, ma anche... Abbiamo anche un sito www.workers.it con una piccola gallery di alcune storie che anche oggi scopriremo, e invitiamo tutti i radioascoltatori a lasciare la propria storia, cioè come si è diventati WWW workers lasciando un lavoro a tempo determinato. Chi è che ha inventato WWW workers? Perché io non lo riesco a pronunciare per ovvi difetti di pronuncia, però cioè... Il progetto nasce nell'ambito del team Altra TV, quindi progetto interuniversitario che vuole un po' mappare queste esperienze, diciamo, di protagonismo local, territoriale, di persone che hanno scommesso sulle proprie capacità professionali, ma attenzioni legate alle passioni. Tutti inglesismi, cioè non potete fare una roba più... No. Però vabbè, scopriremo, Luca, che da queste storie in realtà c'è molta italianità e poco inglesismo. Ecco, infatti. Allora, passiamo subito a vederle queste storie con Patrizia Sant'Ambrogio, che dovrebbe essere in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, fermiamoci solo un secondo perché sentiamo la scheda che ha redatto Gianpaolo Colletti su Patrizia. Per Patti, al secolo Patrizia Sant'Ambrogio, l'anno appena concluso ha segnato uno spartiacque. C'è un prima e un dopo. Nel suo prima, il lavoro a Piazza Affari come executive manager alla Borsa di Milano. Nel suo dopo, una passione divenuta professione, quella di Nail Art Stylist. La sua passione per l'onicotecnica, ovvero la tecnica di ricostruzione delle unghie, nasce nel 1989, entrando per caso in una bottega a Londra e restando ammaliata da glitter, polverine colorate e brillantini. Patrizia Sant'Ambrogio è una WWW workers per necessità. Dalla crisi è stata spinta a trovare soluzioni alternative e vincenti per la sua vita professionale. Mi sono ritrovata in piena crisi finanziaria alla ricerca di un lavoro, dice, e dopo aver inviato svariati curriculum vitae senza successo, ho pensato di scommettere su me stessa. Oggi è a capo della sua accademia itinerante Exclusive Nails. Milanese di nascita, ma cittadina del mondo, Patrizia si è reinventata a 38 anni. Ha avuto coraggio e ha avuto la meglio. Patrizia ha creato un suo studio a casa, autogestisce i suoi orari lavorativi e la sua vita, e oggi ha la possibilità di conoscere posti e persone nuovi. Racconta ancora Patrizia: «La mia forza, dopo persone sbagliate con cui ho iniziato il mio percorso, è l'affetto delle ragazze del mio forum su internet. Ah, questa è piaggeria però, Sant'Ambrogio. Cioè, la parte... Ti saluto, tra l'altro, le saluto tutte perché so che molte sono all'ascolto. Ecco, insomma, dalla borsa alla borsetta, permettimi solo la stupidaggine, nel senso che però è curioso questo passaggio, insomma, dai titoli, dalla finanza, da una materia... diciamo come... chiaramente che non c'entra niente. No, ma tu esatto, cioè, tu nasci come... Perché questo è il primo passaggio. Io nasco due volte, perché nasco come interprete, come executive assistant per dei personaggi di rilievo, l'ultimo dei quali è l'attuale city manager del Comune di Milano, Beppe Sala, il quale ha avuto l'idea di aprire questa società in collaborazione con la Borsa di Milano, che purtroppo dopo un anno e mezzo ha navigato in cattivissime acque. Com'è cambiata la tua vita, Patrizia? Come ti sei reinventata? Mi sono reinventata rispolverando delle vecchie conoscenze che sono quelle dell'onicotecnica. In realtà io sono nail stylist, ma il mio attuale lavoro non è esattamente quello di ricostruire unghie, bensì di organizzare corsi attraverso la mia accademia itinerante. Quindi ho deciso di aprire la mia partita IVA e di tentare di mettermi in gioco. Quindi tu nasci, nasci sulle unghie, cioè nasci facendo unghie. È una passione che ho tenuto nel cassetto per 20 anni, dilettandomi su amiche delle amiche, mamme delle amiche. È una passione che ho seguito seguendo altri forum, eccetera, che però mi dilettavo nei ritagli di tempo. Una volta tolto il due pezzi, cioè il gessato da ufficio, io mi mettevo il mio camice e facevo durante la sera, durante i weekend, tempo permettendo, facevo le mani. Ma trasformando una passione in una professione, la domanda clou è questa: c'è del business? Si riesce a campare? Diciamo che sicuramente tutto quello che ha a che fare con la bellezza per le donne non è in crisi. Ah sì? Quindi è un settore che ha risentito molto poco della crisi, e qui viene fuori la mia conoscenza di quelle che sono le crisi finanziarie, o meglio le sorti delle finanze. Perché tu dici, nel momento di disagio, di depressione, così si uno... Si consola con un acido glicolico o con un paio di mani da mettere bene in mostra. Cioè, la donna difficilmente rinuncia a queste piccole sciccherie. Ma quanto costa rifarsi tutto? Chiaramente quasi non ne sappiamo. Guarda, la costruzione unghie varia. Allora, rimanendo nella legalità, tra virgolette, quindi facendolo presso un centro, facendolo da onicotecniche specializzate, si parte dai 50 fino ad arrivare ai 120 euro. E quindi i margini, perché insomma vediamo di esprimerci con una terminologia, cioè i fondamentali del mestiere quali sono? Ma sicuramente un'ottima conoscenza sia delle varie tecniche, perché c'è il gel, c'è l'acrilico, ci sono varie tecniche e varie sostanze per la ricostruzione delle unghie. C'è la fibra di vetro, insomma, diciamo che è molto molto molto vasto, quindi una buona conoscenza, una conoscenza perfetta dell'anatomia del corpo umano, specialmente per quanto riguarda la parte mani e piedi, e delle principali patologie delle unghie. Quindi diciamo che è una cliente che arriva con un'unghia mezza morta, non va sottoposta a trattamento. Queste purtroppo sono regole fondamentali, ma che difficilmente vengono seguite, però qua si scende nel dettaglio. E i margini quali sono? Scusa? I margini del business, quando si guadagna, cioè in percentuale? Ma un'onicotecnica o io? No, lei. Dipende dai corsi, dipende quanti corsi si fanno in un mese. Cioè, ce si ne sta possono con ce questa... ne possono essere 10. Cioè, la cosa che volevamo capire è: si sta arricchendo con questa scelta di vita? Arricchendo sicuramente no, diciamo che riesco a stipendiarmi. Ok. Riesco ad avere uno stipendio pulito, sperando che la cosa cresca, perché comunque è una cosa che nasce nel 2009. Io ho terminato a gennaio 2009 la mia collaborazione con Sala e ho iniziato intorno ad aprile a vedere di intavolinare un discorso tra me e me, un discorso con me stessa. E effettivamente Exclusive Nails, che è la mia società, nasce nel maggio del 2009. Ecco. A oggi posso dire di riuscire a fine mese a darmi un buon stipendio. Ecco, la storia di Patrizia nasce come seconda vita professionale nel 2009. Ecco, per i WW Workers l'anno 2009 è un po' lo spartiacque, quello che poi ha deciso un po' la sorte di alcune. Il 2010 forse metterà ancora a fattor comune queste esperienze di WW Workers. C'è una ricerca particolare di Microsoft che sostiene che entro il 2015 il 90% dei cittadini lavoratori europei accederà al lavoro grazie alla rete, quindi internet sarà abilitante per le professioni. Sì, ecco, infatti volevo proprio chiedere questo, ma in questo senso qual è stato, cioè a cosa ti serve a te la connessione online? Allora, la connessione online mi serve innanzitutto come mezzo di pubblicità, per far conoscere la società, per pubblicizzare i corsi. Poi mi è servita inizialmente per far conoscere la società ai master, a coloro che insegnano. E anche lì è un campo, un settore molto delicato, perché poi ci sono delle, specialmente ragazze dell'est, che si spacciano per master e poi non lo sono. Quindi anche prendere... Sì, perché lì c'è anche tutto un sottobosco strano, nel senso che io... Assolutamente sì, guarda, io ho appena accessato una collaborazione recentemente con una persona, una ragazza russa di Bergamo, lei sono master, poi continuavo a chiedere la fattura, perché comunque bisogna lavorare, io non è che ho aperto la partita IVA così tanto per, quindi comunque c'è una tassazione, ci sono determinati margini legali a cui attenersi. Lei prendeva tempo, è venuto fuori che non era master, e io con questa persona ho fatto dei corsi, quindi capisci che c'è il pro e il contro comunque anche su queste cose. Eppure è una persona che come onicotecnica in casa ha un giro d'affari tra i 400 e i 600 euro al giorno. Ah beh. Quindi... Però qui c'è la forza anche della community, Patrizia, nel senso che lei si è ingraziata la community prima durante la scheda, però in realtà il passaparola e la credibilità che acquista grazie alla sua micro community le permette poi di diventare anche credibile. Ecco, questo come funziona? Nel senso che tu hai la scheda finiva con una frase: la mia forza è l'affetto delle ragazze del mio forum su internet, che è molto bella, no? Però, cioè, dal punto di vista economico faccio un po' quello freddo finanziario, in parte perché lo sono, ma anche perché voglio capirle queste realtà, cioè non è un forum di chiacchiericcio. No, assolutamente, diciamo che è un forum mirato, si chiama come la società Exclusive Nails, ed è un forum mirato all'onicotecnica, alla nail art, quindi all'arte di abbellire le unghie. Quindi ci sono ragazze che postano i loro lavori, si commentano tra di noi, si danno suggerimenti, ma c'è proprio una sezione dedicata ai corsi organizzati da Exclusive. Quindi le ragazze tra di loro, se io organizzo un corso in una determinata regione, le ragazze della community mi danno una mano ad organizzarlo. Chiarissimo. E poi vabbè, poi ci sono le collaboratrici dirette, diciamo. A oggi posso dire ho 6 persone che mi affiancano da vicino, ecco, quindi miei validissimi collaboratori, e nel Veneto 3 persone, anche un uomo che è il marito di una mia collaboratrice, che si occupa di della vendita dei corsi. Ah no, non di mani, quindi. No, lui si occupa di tutta quella che è la parte rappresentativa, di rappresentanza dell'azienda. Ma quindi non torneresti mai indietro? Parliamoci chiaro. Al contrario, è un mettermi in gioco che forse avrei dovuto fare prima. Ecco, però non ti manca quel mondo, che poi il mondo della borsa è un mondo particolare, cioè, è un nel mondo senso che stupisce. È un mondo, io ricordo poche volte sono stata a casa, ero comunque sempre in viaggio, ero sempre in giro, quindi no, non mi manca. Pensandoci, no, ben essendo due vite completamente differenti l'una dall'altra. Patrizia ha evidenziato questo aspetto del lavoro casalingo. I WW workers italiani lavorano in casa, ecco, quasi protesi tra il tinello di casa e la rete. E quindi c'è anche forse un'idea del telelavoro diversa, forse una concezione moderna anche di un rapporto con il lavoro. Ma sul tema del telelavoro ci sarebbe proprio da dedicare uno o due puntate, anche perché l'Italia da questo punto di vista è un paese assolutamente anomalo, nel senso che in molti paesi, ma l'abbiamo anche raccontato in queste puntate, cioè in molti paesi la presenza fisica è ritenuta accessoria, nel senso ci devi essere di persona quando serve. Se importante sono le performance, i risultati, cioè la misurazione di quello che è il tuo lavoro. E questo, se si hanno tecnologie, internet, così si può fare tranquillamente da casa. Io a Microsoft Italia, un giorno che sono andato in visita, ho visto il loro impianto per le videoconferenze. Loro sono costantemente connessi ovunque e giostrano il loro lavoro anche stando a casa più di un giorno. L'importante è che partecipino alle riunioni, cioè poi sul fatto di stare o meno in un posto di lavoro di fatto ci sono tutte le tecnologie abilitanti per giostrare la propria presenza in modo diverso. Sì, e poi forse possiamo dire che in realtà questi WW workers non sono always on, in qualche modo non sono collegati giorno e notte, non sono smanettoni della rete, utilizzano la rete per un proprio percorso di autoimprenditorializzazione, però in realtà in qualche modo riescono anche a sganciarsi dal virtuale. Ecco, adesso passiamo a un altro lavoratore, io lo chiamo lavoratore perché ogni tanto workers con raffreddore è drammatico. Siamo in collegamento con Franco Zullo. Buonasera a tutti. Buonasera, anche per lei abbiamo una scheda, sentiamola. Il nuovo ufficio di Franco Zullo è una lavanderia sui generis. È la prima lavanderia in Italia che offre un servizio integrato. Tutto su internet. E, cosa da non sottovalutare, è la sua lavanderia. Infatti Franco è l'artefice di lavonline.it, una società milanese che offre servizi a domicilio di piccola sartoria, lavanderia, laboratorio pelli e pellicce. Il tutto utilizzando le piattaforme dell'e-commerce. Franco, 42enne laureato in ingegneria elettronica, è un orgoglioso WW Workers. Ha lavorato per 11 anni a tempo indeterminato in una multinazionale di telefonia mobile. Nella vecchia azienda ha rivestito ogni tipo di funzione. È passato dal marketing alle vendite fino ad approdare al budgeting. Poi un bel giorno ha detto basta e si è rimesso in gioco. Volevo provare a realizzare un sogno, dice, fare l'imprenditore. La sua attività è partita nel 2007 e si è rafforzata in tempo di crisi. Abbiamo chiuso il 2009 con un più 12%. E le previsioni sono tutte col pollice all'insù, racconta Franco. L'obiettivo principale è quello di proporre un servizio comodo, sicuro e veloce, sfruttando le nuove tecnologie. Precisa ancora, abbiamo un target ampio, dal manager rampante all'impiegato pendolare, entrambi alla ricerca di servizio e attenzione. Allora, questo è già imprenditore serio, eh? Cioè qua si lavora già sull'internet, quella che non è internet digitale, ma è proprio internet come servizio. Zullo, buonasera. Il passaggio com'è stato? Ma il passaggio è stato molto graduale e consapevole per questa nuova attività, quindi diciamo ero abbastanza confidente sulle mie capacità e possibilità e ho abbracciato questa nuova avventura anche perché ci credevo, quindi l'importante è crederci nelle cose. Ma poi, come cambiano, Zullo, i ritmi di lavoro da lavoratore a tempo determinato indeterminato, quindi dipendente, a chi invece diventa imprenditore di se stesso, i suoi ritmi? I miei ritmi, io lavoro 18 ore al giorno, diciamo. Più che nell'industria di... No, nell'industria. Lei lavorava in una multinazionale di telefonia mobile. Sì. Di più, esatto. Quindi? Sì, molto di più. Anche perché poi, vabbè, diventa una passione, quindi le 18 ore al giorno, diciamo che non mi pesano. Quindi diciamo anche quando incontro, non so, il mio PR oppure incontro clienti o potenziali clienti, per me è un divertimento. Ecco, com'è che funziona comunque la lavanderia online? Vediamo di capire, di spiegare bene. Allora, vediamo di capire bene. innanzitutto io ci tengo a precisare che, diciamo, la lavanderia è un po' riduttivo. Noi siamo un service, nel senso che offriamo, oltre alla lavanderia, come detto nella scheda, piccola sartoria, ma anche la calzoleria online. No, perché io sto leggendo dal sito, sì. Vedo guanti lana 3,50 euro, così. Sì. Jeans 4,50 euro, però siete un po' cari, o no? Allora, cari, diciamo, rispetto a che cosa? E questo è il punto. Rispetto alle lavanderie, quelle che ci sono nelle grandi città, ecco, nel senso, io ragiono da milanese. Allora, sì, assolutamente. Allora, le rispondo subito. Allora, il nostro target di riferimento sono tutte quelle persone che non hanno tempo e desiderano essere vestite sempre perfette. Ok. Quindi, per questa ragione, noi offriamo un servizio di alta qualità, di lavanderia tradizionale. Poi, se uno ha tempo e ha voglia di spendere poco, va in un centro commerciale. Quindi la logica è quello, il manager piuttosto che, insomma, la persona che deve essere sempre in tiro, perfetta, che non ha tempo neanche di scendere. Esatto, questo è il nostro modello, questa è la nostra nicchia. Poi ci può essere anche l'impiegato oppure la persona, diciamo la casalinga che ci tiene a essere vestita in un certo modo, eccetera, eccetera, e quindi si rivolge a noi. Quindi noi non abbiamo nessuna preclusione. Ecco, ma voi dove siete? Cioè, dov'è che vi muovete? Siete nelle grandi città? Siete... Allora, noi per adesso siamo solo su Milano città e siamo in via di sperimentazione su Roma. Ah. E questo è interessante. Quindi... Mazzullo, lei si sarebbe servito di una lavanderia online nella sua vecchia vita da lavoratore dipendente? Diciamo di sì, perché diciamo che l'idea di business nasce appunto da una mia esigenza, che non avevo mai tempo di andare in lavanderia, in calzoleria, di andare a riparare, non so, la scucitura oppure altro. Quindi per me, cioè, estremizzando la mia idea di business, noi vendiamo tempo prezioso per le persone che non hanno tempo. Ah, no, vabbè, quindi, cioè, tra l'altro questo è un bene, certo. Esatto, naturalmente la nostra difficoltà è appunto quella dell'essere credibile online. Ma perché lei comunque, cioè, il vero problema è che lei una lavatrice in casa non se la faceva, cioè, da un certo punto di vista. In realtà la lavatrice in casa uno se la fa, però per determinate cose le deve portare in lavanderia, come per esempio il vestito che va lavato a secco, oppure la cravatta. Cioè, una stirata alla camicia non l'ha mai data? Io sì, io stiravo. Ah, occhio. Sì, assolutamente. Io stiravo all'inizio, diciamo, da studente e all'inizio della mia carriera professionale, mi stiravo io le camicie. Abbiamo pochissimi secondi. Sì. Un consiglio a chi, insomma, cioè, per questo tipo di attività che fanno affidamento su internet, magari dai, ce lo da dopo. Allora, adesso ci fermiamo, diamo la linea alla borsa, poi resti con noi, Zullo. Nova Lab 24. E eccoci, Luca Tremolada, Giampaolo Coletti, siamo con Franco Zullo, un www.workers, ricorda, ti odierò per tutta la vita per questo nome che hai coniato. Ricorda, in parole povere, diciamo che sono quei lavoratori che hanno abbandonato il posto fisso, quindi lavoro a tempo determinato e indeterminato, e hanno scelto... O che sono stati abbandonati, sia necessità che diletto, e hanno scelto di mettersi in proprio e di diventare dei lavoratori per passione, utilizzando anche le nuove tecnologie. Zullo, i nostri ascoltatori, comunque, che lei lavora 18 ore al giorno, non ci crede nessuno, eh? Va bene, ma... non ci sono problemi, eh? no, non la prenda male, però, succede. No, cioè... no, però, allora, eravamo ritornati, il suo è, diciamo, un servizio via internet fino a un certo punto, nel senso che voi volete fare lavanderia di alta gamma, come si dice in termini di elettronica di consumo, andando a prendere direttamente, no, dalle case i vestiti, pulite, servizio, insomma tutto quanto, ragionando sul fatto che i lavoratori non hanno tempo, per cui direttamente da internet fanno le ordinazioni. Sì, allora... è così che funziona. Esatto, è così. Allora, infatti la cosa importante è aver ben chiaro il target di riferimento, in questo caso quindi le loro vere esigenze. Ci sono anche molti dei miei clienti, avvocati o commercialisti, che mi prenotano via chat. Mi può venire a ritirare il come mio via vestito. Chat? Perché lei quindi sta in chat tutto il giorno. Io tramite Gmail è possibile utilizzare la chat, loro hanno la mia mail privata e mi possono prenotare l'ordine. Quindi l'importante è far diventare, veicolare, utilizzare, diciamo, internet come non solo veicolo appunto per scambiarsi mail, ma anche per fare networking e sfruttare anche i social networking. Ecco, Zulo, al netto, perché me lo chiedono, al netto della lavanderia, aprire un sito che consente appunto di fare ordinazioni eccetera eccetera, quanto costa? Dipende dalla complessità che hai, sì. nel suo caso che è, mi sembra un sito strutturato dove sì, diciamo con tutte le funzionalità, diciamo stiamo sui 20-30 mila euro all'anno. Allora, il primo anno, sì. Forse non ho capito bene la domanda. Cioè, quanto costa tenere in piedi un armamentario informatico che le consente di rispondere in tempo reale alle esigenze di, insomma, alla domanda di vestiti, di pulizia? Sui 30.000 euro. Mi sembra tanto. Un bel investimento, forse anche in fase iniziale. Tra l'altro, per i radioascoltatori incuriositi, Franco Zullo è uno dei primi profili pubblicati su www.workers.it, dove ci sono anche le altre storie che stiamo raccontando. Sì, tra l'altro apre oggi, diamo questo... Il battesimo del sito. Noi raccoglieremo, ricordiamo, le storie di questa nuova generazione. Non la chiamate mai generazione, perché è una cosa orrenda. Lasciatelo dire a me, una nuova generazione di imprenditori che utilizzano la rete o che sono utilizzati dalla rete, questo poi lo andremo a capire più nello specifico, dove si trovano già le storie. Sì, io sfaterei un altro luogo comune: non sono smanettoni della rete, non sono giovanissimi, il target è davvero variegato, anche chi supera i 50, lo scopriremo tra qualche minuto, ha deciso di diventare un WoW Workers. Ma tra l'altro, noi prima di passare alla famiglia Bertolucci abbiamo realizzato un'intervista, anzi Simona Salvi, che si sta sedendo in questo momento, del team Altra TV, ha realizzato questa intervista a chi ha deciso di scommettere anche sulla propria vita e sul proprio percorso professionale e ha deciso di dire adesso basta. L'autore è Simone Perotti, cioè ha intervistato Simone Perotti e ha scritto questo libro Adesso Basta. Sentiamo l'intervista di Simona Salvi. Simone Perotti ha 44 anni. Dopo aver fatto per 19 anni il manager, ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi alle sue passioni. Che cosa ti ha spinto verso questa decisione così radicale? La consapevolezza di aver raggiunto un certo benessere grazie a carriera, lavoro, impegno, eccetera, ma di non essere un uomo libero, di non avere così tanto benessere vero. Apparentemente sì, sigle, aziende, curriculum, denaro, stipendi, certezze, ma in realtà il benessere per me passava molto per la libertà ed ero inserito in un meccanismo molto stritolante, quindi quella libertà non l'avevo. Meccanismo che hai lasciato per occuparti di cosa? Delle due passioni della mia vita, che sono scrivere romanzi. Io ho sempre scritto, pubblicato con Bompiani, adesso il successo del libro apre nuove opportunità anche molto piacevoli. Io ho sempre fatto lo skipper, l'istruttore di vela, e ora faccio i mestieri anche più umili della vela e dell'attività portuale, quindi lavo barche, le sposto, faccio manutenzione, insomma tutto quello che all'interno di queste due passioni mi consente di vivere. E adesso basta, il tuo ultimo libro, che ha avuto appunto, come hai detto tu, molto successo, un saggio nel quale tu racconti proprio come è possibile cambiare vita, racconti la tua esperienza e dai anche dei suggerimenti pratici. Quali suggerimenti possiamo dare? Beh, i suggerimenti pratici sono, ahimè, molto intrecciati con i suggerimenti ideali, quindi la scusa, la possibilità anzi che ci siano delle scorciatoie in questo tipo di scelta è abbastanza remota. Occorre avere dei sogni, perché è vero che bisogna cercare di liberarsi da ciò che ci trattiene, ma dobbiamo soprattutto avere qualche cosa che vorremmo farci con questa libertà, quindi essere liberi di, e quindi dobbiamo avere dei sogni concreti, realizzabili, progettabili. Introdurre una bella iniezione di disciplina negli anni per fare quello che serve per avvicinarsi alla realizzazione di questi sogni, lottare molto fortemente perché il sistema non lascia andare nessuno di noi se non a costo alto, e poi lavorarci con ottimismo. Il sistema è assolutamente abbandonabile, non è affatto vero che sia così difficile da abbandonare, le paure sono tante, naturalmente, le abbiamo tutti, però si può vivere in maniera diversa, si può assolutamente vivere in maniera diversa, non è l'unico modo di vivere questo. Il sistema è abbandonabile, diceva l'autore di Adesso Basta. Simona Salvi, che impressione hai avuto leggendo il libro? Che il sistema è realmente abbandonabile? Ma all'inizio, da parte di tutti, soprattutto da parte dei più scettici e così anche da parte mia, viene da dire, ma magari sarà stato un colpo di testa effettivamente, sarà stata una scelta fatta senza pensare poi alle reali conseguenze che vengono dopo. Invece io, soprattutto poi intervistando lui, Simone Perotti, ho trovato una persona con un carattere ben solido, con una personalità comunque costruita, salda, che aveva maturato la sua scelta a fondo e quindi che aveva preso una decisione molto consapevole. Certo, ovviamente è una scelta di vita molto importante e difficile da fare, però serve molto carattere. Questa è l'idea che mi sono fatta, perché poi abbandonare tutte le certezze per veramente affrontare la vita senza sapere oggi, domani, per seguire le proprie passioni, è difficile. Certo, che bisognerebbe anche capire quelli che tornano indietro da queste scelte, perché adesso stiamo raccontando ed è anche facile rispetto al momento, abbiamo visto i dati sulla disoccupazione, abbiamo visto che c'è una reale esigenza anche di reinventarsi, però qualcuno, quando potrà, quando il sistema lo consentirà, magari aspira anche a tornare sui suoi passi. Ecco, però diciamo che quello che anche traspare dall'intervista è che ci vuole una concretezza dei sogni, ha detto Perotti. Beh, questi WW Workers dicono sì, scommettiamo sulle nostre passioni, ma con un paracadute che ci consenta di scommettere senza tutelandoci in qualche modo dal rischio. La concretezza dei sogni è interessante, è un crederci, ma anche rimanere con i piedi per terra. Sentiamo la famiglia Bertolucci, sentiamo subito la scheda. La famiglia Bertolucci sa bene cosa significa un lavoro itinerante, fatto di sveglie al sorgere del sole e di tanti chilometri macinati, anche nel freddo dell'inverno dell'Appennino tosco-emiliano. La famiglia Bertolucci, infatti, ha girato per decenni in tanti mercati, fiere ed eventi di borgata. È una famiglia di artigiani itineranti che un bel giorno però ha deciso di parcheggiare il furgoncino e accendere il computer. Correva l'anno 2003 e di lì a poco i Bertolucci sarebbero diventati antesignani WW Workers. Mamma Silvia, 51enne appassionata di equitazione, l'intuizione l'ha avuta dal figliolo, all'epoca 16enne. Ci siamo avvicinati alla rete per caso. Non siamo nativi digitali, precisa Silvia. Oggi però, grazie alle nuove tecnologie, la famiglia Bertolucci gestisce un negozio online su eBay e ai mercati frequentati un tempo, dall'alba al tramonto, ha sostituito la vita tranquilla delle verdi colline del Chianti. È proprio da Tavernelle, in Val di Paesa, borgo in provincia di Firenze, che Silvia e suo marito propongono alla comunità di internet prodotti fatti a mano in tessuti naturali e pula di farro bio, cuscini per dormire e guanciali per l'allattamento, e le commesse non mancano. Anche dall'estero, Germania e Stati Uniti in testa. Eseguiamo lavori personalizzati su ordinazione per centri yoga, benessere, termali, villaggi vacanze e agriturismi. Talento e nuove tecnologie mescolate al profumo del Chianti per questa famiglia di WW Workers. La cura del dettaglio e il talento dell'artigianato arrivano direttamente a domicilio con un click. Internet ha migliorato la vita della famiglia Bertolucci, ma non ha sostituito l'originalità del prodotto, precisa Silvia. Nel nostro laboratorio gli articoli sono fatti interamente a mano, in modelli unici. Made in Italy applicato ad una famiglia che ha deciso di scommettere sulle nuove tecnologie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, Coletti vi ha definiti che non siete, insomma, non siete nativi digitali. Insomma, questa è una scelta di vita vera e propria, da quello che è chiaro. Sì, dopo la nascita di nostro figlio era difficile continuare a viaggiare, a fare mercati, quindi abbiamo deciso piano piano di migrare in rete. Soprattutto abbiamo capito le potenzialità della rete, della vendita online. Ecco, ma lì voi siete una... Grazie a Mauro, a mio marito, perché lui che era più dentro... Ecco, la cosa che vorrei anche capire è eBay noi non l'abbiamo mai raccontato e questo è di fatto però è una piattaforma stranota, molto utilizzatissima in Italia, utilizzatissima nel mondo, dove sono nate queste figure di insomma di giovani, giovanissimi, ma non solo, che aprono un negozio su eBay e che in un certo senso vendono con un canale che è completamente diverso da quello normale della distribuzione fisica. Questo tipo di passaggio come è avvenuto? Cioè, cos'è che spinge le persone poi a dire ok, a questo punto smetto di girare fisicamente, apro un negozio su eBay e quindi mi specializzo da un certo punto di vista? Ma guarda, il nostro è un prodotto particolare, un prodotto di nicchia che nel 2003 in effetti non era ancora molto conosciuto. E nei mercati, le fiere andava, però poi abbiamo provato a mettere i primi cuscini, era novembre del 2005, su eBay e subito sono stati venduti. Sarà stato il periodo sotto Natale che è stato favorevole, però si sono venduti subito e questo ci ha entusiasmato, ci ha incoraggiato, abbiamo aperto un negozio su eBay e sta andando sempre meglio. Però dopo di allora non siamo solo su eBay adesso, abbiamo anche altre piattaforme dove vendiamo. Allora, sempre online. Me la le altre piattaforme che andiamo anche a indagare, perché giustamente vogliamo anche cercare di dare due o tre consigli a chi magari vuol seguire questi passi, le sentiamo tra pochissimo. Ora ci fermiamo per il traffico. Nova Lab 24. Allora, rieccoci, stavamo cercando di capire come funzionano poi la vendita online in questo senso. Siamo in collegamento con la famiglia Bertolucci, che ha deciso di scommettere, diciamo, su una cosa particolare, su questa micro community ecosostenibile. Può dare dei consigli Silvia Bertolucci anche per creare una piattaforma e-commerce e investire in questo? Ma guarda, noi ci stiamo appoggiando a delle piattaforme già esistenti, che è Zoes. Una di queste è Zoes, che è una piattaforma, è più che altro è un social network, sì, di ecosostenibile. È un social network, sì, uno spazio online soprattutto dove serve per informare, condividere delle buone pratiche di ecosostenibilità. Sì, tra l'altro dovremmo anche parlare di Zoes, anche perché quelli sono microcircuiti dove in un certo senso viene garantita più che la qualità, la scelta di vita delle persone, sì, che le popolano. E soprattutto ci sono prodotti etici anche all'interno. Infatti noi puntiamo soprattutto per i nostri cuscini su una ricerca di tessuti che abbiano un poco impatto ambientale. Quanto costa il cuscino? Dipende. Mi dica un prezzo. Oh, guarda, quello più piccolo, quello che abbiamo, più caro, il poggiapolso per il mouse a 5 euro. Ah, vabbè, insomma. Quindi, abbordabile. Grazie. Noi passiamo a sentire Gabriele Littera, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora sentiamo, se avete sentito che è sardo, sentiamo subito la scheda. Gabriele Littera è giovanissimo, ma per diversi anni ha avuto un contratto a tempo determinato per una società di consulenza. Poi un giorno ha deciso di diventare padrone del suo tempo e così, con l'aiuto di amici e parenti, ha messo in piedi Sardex. Siamo nel cuore della Sardegna, a Serramanna. È qui che nasce una società che gestisce un circuito di scambio commerciale. Piccole e medie imprese del Cagliaritano entrano in rete per migliorare il proprio business, ottimizzare i processi. Sardex è una professione fatta di tanta passione per la propria terra. Si rivolge a imprese e professionisti sardi, anche per rimettere in moto l'economia locale. Racconta Gabriele. Io sono il presidente del consiglio di amministrazione. Il mio compito è predisporre i piani di marketing settoriali e territoriali. Spesso le idee dei WWW Workers nascono in cantina o nei garage. Gabriele, con la sua tribù, l'idea l'ha avuta in un solaio. Eravamo al settimo cielo e lo siamo ancora. Gabriele è connesso almeno 12 ore al giorno. Online scrive, telefona, legge e trova idee per la sua passione, divenuta professione. Allora Gabriele, Littera o Littera? Qual è l'accento Littera, giusto? Littera, è andata bene. Mi dicevi Giampaolo, che sono, queste sono esperienze particolari. Beh sì, c'è un pubblicitario inglese che le ha definite global micro brand, cioè sono delle piccole tribù che, diciamo, fanno del marketing casalingo e raccontano i territori, quindi in realtà valorizzano il proprio territorio. Il Sardex nasce proprio anche per valorizzare il territorio della Sardegna, insomma, e mettere in rete le imprese. Com'è che sta andando? Abbiamo dei segnali veramente incoraggianti che ci danno conferma della, diciamo così, dell'intuizione che abbiamo avuto io e gli altri soci nel voler fondare questo tipo di attività. Diciamo che quindi la crisi abbiamo... mi faccia essere un po' cattivo, mi lascia essere un po'... Sì, prego, prego. Quindi sta crisi qui... o la sente, cioè il pass, perché altrimenti sembra che uno diventa imprenditore va tutto bene, no? Non lo so. Ma no, in realtà l'attività che, di cui si occupa appunto la nostra impresa è un'attività che si sviluppa maggiormente proprio nei periodi in cui ci sono delle crisi di liquidità. Nel senso che i momenti in cui le imprese e i professionisti hanno difficoltà ad accedere alla liquidità necessaria a poter far funzionare correttamente e a far crescere le loro imprese, in questi momenti è possibile, utilizzando appunto il potenziale inespresso che hanno, accedere a un mercato di prodotti e di servizi che permette appunto di colmare l'assenza di una liquidità semplicemente con una nuova forma di Qual è la sua storia, Gabriele? Cioè la storia di un gruppo di persone che a un certo punto decide di fare un salto o è l'intuizione di un singolo? No, assolutamente, è la storia di un gruppo. Io ho la fortuna di essere affiancato e insomma di far parte di una società in cui oltre a me ci sono altri tre soci e affianco a noi ci sono diversi collaboratori che nel corso del tempo ci hanno fornito insomma dei preziosissimi consigli e un supporto senza il quale la mia persona singolarmente non avrebbe potuto far nulla. Parla già come come un amministratore delegato, impressionante. Poi diciamo così che i veri sostenitori, supporters di questi WW Workers sono i familiari, la famiglia e gli amici sono gli alleati fedeli su cui questi WW Workers italiani si basano, quindi in realtà la famiglia di Littera crede in questo progetto. L'altra cosa particolare è che in realtà non è sempre un salto nel vuoto e abbiamo detto che spesso si macinano mesi e anni prima di arrivare ad una decisione anche a volte sofferta. È vero? Beh sì, anche nel nostro caso abbiamo ragionato per mesi sul da farsi e abbiamo studiato per anni su quello che si sarebbe potuto fare. Per fortuna... Comunque sembra a capo di una multinazionale, Lite, a quanti anni ha? 25 appena fatti. Ecco, non male, no, però si prende molto sul serio, che va bene, cioè va benissimo, anzi ci mancherebbe altro, ma insomma ha anche 25 anni, no? Cioè, sì, è bello. Sì. Ma diciamo che insomma poi dipende da persona a persona, c'è chi alla mia età ancora non si sente di essere troppo responsabile, io forse ho bruciato un po' le tappe, ma non importa. Simona Salvi, ma ci sono i Littera nel libro, parla dei Littera di personaggi così, cioè questo è un caso di imprenditore già navigato che in un corpo giovane, cioè in un corpo di... Infatti spesso e volentieri sono, mi sembra che siano, alle volte sono anche delle scelte un po' dettate dal... fatte per forza di cose, insomma, dettate dalla via, quasi obbligate, delle scelte obbligate diventano delle volte. Invece nel caso di Simone Perrotti, lui ha lasciato proprio tutto una vita che per molti era intesa come benessere, ma per lui era diventato un malessere proprio. Infatti Giampaolo, cioè, secondo me le due linee su cui il mio consiglio per andare avanti, noi daremo voce insomma a queste storie, è anche quello di provare a scavare un po' anche nelle psicologie. Ci hanno fatto una testa così negli anni 90 con i flex, i lavoratori flex, il lavoratore che insomma è brillante, che non ha bisogno di un contratto e così. Poi insomma è successo quello che è successo, adesso siamo tornati indietro. la situazione non è semplice, esistono queste figure sicuramente, noi cerchiamo di raccontarle, di descriverle, però insomma vanno capite bene. Quindi vabbè, l'invito è quello di raccontare la storia da WW Workers sia online su www.workers.it e anche di contarli, perché no? Nel senso che di fatto poi le ricerche dicono che molte persone, tra l'altro, vengono conteggiate da internet, cioè internet diventa lo strumento per censirle. Però insomma, vediamo anche di capire quante sono, poi magari chissà che cosa diventano, ecco. Un dato particolare italiano è che sembra che siano omogenee queste storie, sia nel nord che nel sud nascono e si moltiplicano i WW Workers. Nelle prossime settimane andremo a sondare anche meglio se questo davvero questo dato è così. Ricorda, porta che non diciamo più WW Worker nelle schede perché è drammatico, però posto che toglieremo questa espressione almeno nelle schede, ricorda gli indirizzi. Beh, ricordiamo che su come possono accedere e scrivere le loro storie, come possono contattarti. Mi tocca ricordare il sito www.workers.it, dove è possibile riempire la scheda per raccontare la propria storia da professione a passione, quella appunto che è diventata. In realtà era tutto un escamotage per fartelo dire 8 volte. Io ringrazio Simona Salvi. Grazie a voi. Che è arrivata adesso da Pescara. Sì. Precisamente, per infatti con l'aereo direttamente. Ok, speriamo di risentirci. Noi adesso diamo però la linea alle news che raccontano un po' quello che è successo a Las Vegas al CES. Esce oggi Darksiders, videogioco che miscela diversi generi prendendo spunto dal libro dell'Apocalisse dell'Evangelista Giovanni. Naturalmente si vestiranno i panni, anzi l'armatura, del cattivo War, il più temibile e spietato dei 4 cavalieri dell'Apocalisse. Il compito del giocatore è quello di arrivare sulla Terra ormai devastata dall'Apocalisse e combattere la guerra tra eserciti di Inferno e Paradiso. Il titolo nasce dalla fantasia di Joe Madureira, disegnatore degli X-Men, che ha lasciato la matita per fondare un suo studio di sviluppo. Notizie dal Consumer Electronics Show di Las Vegas. La fiera dell'elettronica di consumo è sempre più televisori in 3D, lettori degli e-book e microprocessori. Ieri il keynote di Steve Ballmer di Microsoft. Nessun fuoco d'artificio, come era peraltro atteso, se non la presentazione di un tablet PC realizzato in collaborazione con Hewlett-Packard. Un dispetto a Steve Jobs, che presenterà il suo Ice Lake solo alla fine del mese. Tra gli annunci, oltre alla celebrazione del successo di Windows 7, la conferma che Natal, il dispositivo per Xbox 360 che consentirà di giocare senza joystick, uscirà per l'appunto il prossimo Natale. Oggi, sempre a Las Vegas, ha parlato Paul Otellini, grande capo di Intel, che ha presentato le novità in fatto di film 3D, apparecchi elettronici di largo consumo e personal computer, e la prossima piattaforma Moorestown, pensata per smartphone e portatili. Otellini ha detto che l'azienda spera di capitalizzare sulle nuove opportunità presentate dal nuovo mondo fatto di prodotti iperconnessi. Alla fine, ogni apparecchio elettronico, ha detto, sarà connesso a internet.